Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è Non facciamo tante storie. Oggi ti parlo di vulnerabilità e di magia. C'entra, perché la magia abita la vulnerabilità. Siamo vulnerabili quando abbandoniamo la modalità di controllo, quando ci arrendiamo all'incertezza delle cose, di tutte le cose. Ecco, nella resa, lì sei vulnerabile. E quando sei vulnerabile, allora cambia la narrazione interna. Questa è magia. Cambiare la storia che ci raccontiamo. Smettere di fare storie e iniziare ad essere la nostra personale storia. Alcuni anni fa ero a Mallorca, nelle Baleari, per guidare un workshop yoga. In quei giorni compiva gli anni la mia amica Mar. Ciao Mar! E come regalo di compleanno mi chiese di raccontare un mito indiano alle persone invitate alla sua festa, una trentina di adulti e svariate bambine e bambini di età mista. L'idea di una storia dedicata a chi era presente per festeggiare la mia amica era veramente fighissima, quindi ho detto subito di sì. A questo punto è bene si sappia un dettaglio importante. Io non ho mai studiato spagnolo e lo parlo solo quella volta all'anno in cui insegno lì. E no, non basta aggiungere una S. Così, dopo il dolce, ci riuniamo in una bellissima saletta di legno, con la luce soffusa delle candele. Ci sediamo tutti quanti in cerchio, tranne le bambine e bambini che mi si aggrappano addosso seguendo l'agile modello delle cozze sullo scoglio. E la racconto in italiano, lentamente, perché non voglio rovinare la festa, rendendo la storia incomprensibile col mio pessimo spagnolo. La magia è che le bambine e i bambini hanno seguito perfettamente la storia anche se la raccontavo in italiano. E grazie, mi dirai, sono bambine e bambini, la magia la conoscono benissimo. Beh, la magia vera allora è che anche le persone adulte hanno seguito. Mi ha colpito tanto lo stupore di un giovane papà mentre mi diceva ad occhi sgranati che non aveva capito una singola parola, ma proprio nemmeno una, alla faccia della mia cura nel parlare lenta. Però si era incantato ad ascoltare. Era stato avvolto dai colori e dai personaggi sconosciuti di quel racconto che arrivava da un luogo lontano nello spazio e nel tempo e attraverso una lingua straniera. Ecco, questa è la magia. E succede perché io lo so che i miti sono qui adesso. Non sono roba dell'era di epica al liceo. I miti sono fatti della stessa energia di cui è fatto il corpo, la natura e l'universo. Sono vivi, palpitanti, pulsanti, vibrano nella profondità delle nostre ossa. Sono le nostre storie collettive e allo stesso tempo personali. Scoprire i miti nel corpo con yoga e mitologia ci porta a sentirci a casa in noi stesse e noi stessi. A trovare la giusta forza nel cambiamento. A far emergere le nostre risposte interiori. Così. Tutti i giovedì di novembre, in diretta, dalle 19.30 alle 21, e con la registrazione a disposizione per una settimana intera, scopriremo i miti nel corpo nel percorso Il fascino degli dèi. 4 incontri di yoga e mitologia online. Questo percorso speciale non è mai uguale a se stesso, è sempre diverso, in movimento, proprio come i miti, proprio come la vita. Se ti iscrivi con un'amica o un amico, c'è un bello sconto sul contributo di partecipazione, quindi scrivimi per avere informazioni. Se vivi ad Ancona, o passi per Ancona, o vieni ad Ancona, o se conosci qualcuno o qualcuno nei dintorni che potrebbe ospitarti o partecipare, domenica 6 novembre, dalle 16 alle 18, al Centro Olistico del Conero, guiderò una masterclass di yoga e mitologia in presenza. Prenotazione obbligatoria, quindi scrivimi. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di William Dalrymple dal suo 9 vite. Gli dèi crearono l'uomo, ma noi qui siamo così fortunati che aiutiamo a creare gli dèi, pur essendo noi semplici mortali. Un grande abbraccio, Laura.